Non c'è stato appello del Papa, né mobilitazione di massa contro la triplice esecuzione di mercoledì sera nell'Arkansas, quando tre condannati sono stati messi a morte uno dopo l'altro, confermando pur senza migliorarlo il primato statunitense in materia. La Radio Vaticana ha dato notizia delle tre uccisioni parlando di una decisione grave che sembra segnare l'avvio di una macabra catena di montaggio. E quasi tutti i giornali italiani le hanno doverosamente deplorate, ma senza esagerare. La rivolta mediatica delle coscienze che appena un mese fa ha salvato la vita almeno per ora a Joseph O'Dell non si è ripetuta. Se i tre detenuti dell'Arkansas non fossero stati fatti fuori praticamente in contemporanea con il lodevole scopo, come hanno precisato i vari portavoce, di diminuire le spese materiali dell'esecuzione e la tensione nervosa degli addetti alla medesima, probabilmente a ciascuno dei tre non sarebbe stato dedicato più di un modesto trafiletto nelle pagine interne. Il che è assolutamente logico. Le notizie, secondo gli assiomi più noti del giornalismo, acquistano peso in relazione alla rarità degli eventi di cui riferiscono, e non c'è niente di meno raro su questa terra dell'esecuzione di una condanna a morte. In tutto il mondo i condannati in attesa di cui si abbia una notizia sicura sono 3.100. Nei soli Stati Uniti d'America il numero di quelli la cui uccisione è prevista entro l'anno sfiora il centinaio, vuol dire uno ogni tre giorni più o meno. Non ci si può mobilitare per tutti, anche se mobilitarsi solo per certi singoli casi può sembrare ingiusto, e infatti quello del perché per lui e per gli altri no è uno degli argomenti che con una bella dose di ipocrisia i fautori della pena di morte rinfacciano ai loro avversari. Né per tutti può intervenire il Papa, che oltretutto è ostacolato dal fatto che nell'ultima edizione latina del Catechismo della Chiesa Universale il ricorso a quella pena resta ammesso in casi estremi. Se questa sia l'unica possibilità efficace per difendere vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine pubblico, e se sia pienamente accertata l'identità e la responsabilità del colpevole, cito da una traduzione pubblicata dalla Stampa il 29 ottobre scorso. E sembra proprio che sulle responsabilità di Kurt Wainwright, Irfon Denton e Paul Ruiz, i tre giustiziati di mercoledì scorso, di dubbi ce ne fossero pochini. Erano tutti e tre colpevoli come il peccato, sembra. Sulla situazione di Joseph O'Dell invece da ridire c'era parecchio, ricorderete tutti, no? Come il Tribunale della Virginia rifiutasse per un capitolo giuridico di prendere in considerazione quella che forse avrebbe potuto essere la prova definitiva della sua innocenza. Però non offenderò la vostra intelligenza facendovi notare che una cosa è mobilitarsi in difesa del presunto innocente in nome della sua innocenza e una cosa è schierarsi contro la pena di morte. L'opposizione alla pena di morte, come l'ha definita due secoli fa quella cultura illuministica che oggi è tanto di moda schernire, prescinde ovviamente dalla colpevolezza o dall'innocenza del condannato. È un problema di diritti. In particolare di quel tremendo diritto ad uccidere che lo Stato si arroga pur negandolo ai suoi cittadini e che molti, piuttosto ragionevolmente, pensano che non debba essergli affatto riconosciuto. Ed è su questo che vale la pena di dividersi, naturalmente, e di confrontarsi, a dire che non bisogna giustiziare gli innocenti col dovuto rispetto sono buoni tutti, compreso i sostenitori più convinti dell'utilità sociale del boia. Oggi, 237 anni dopo l'uscita del celebre pamphlet di Cesare Beccaria, ogni condanna a morte, ogni esecuzione capitale dovrebbe essere motivo di scandalo in sé. Invece continuiamo a scandalizzarci per motivi secondari, senza riflettere che una volta accettato il principio per cui la causa della giustizia impone o semplicemente permette l'uccisione del colpevole, la volontà del governatore dell'Arkansas è di economizzare sulle spese o la sollecitudine con cui il direttore della sua prigione cerca di evitare eccessi di stress ai suoi dipendenti e non possono che apparire preoccupazioni lodevoli, assolutamente lodevoli. Scandalizzarsi perché vengono giustiziati tre prigionieri per volta è una reazione certo naturale, ma può implicare lo sgradevole sottinteso che accopparne uno alla volta vada benissimo. Le esecuzioni capitali negli stati sedicenti civili si ammantano di infinite ritualità, di estenuanti formalismi, che esprimendo una contraddizione di fondo, quella tra la volontà di uccidere e la pretesa di farlo asetticamente, senza sembrare crudeli, determinano i paradossi più spaventosi. Quello, per esempio, per cui uno dei tre condannati ha dovuto aspettare 40 minuti con un lago già pronto in vena che la Corte Suprema desse l'ok, visto che per il direttore del carcere riportarlo in cella, dandogli un'ingiustificata speranza, sarebbe stata una inutile crudeltà. Ma nessuno di questi paradossi ovviamente è tanto odioso quanto la pretesa di fondo di uccidere legalmente. Negli Stati Uniti, come sappiamo, questa pretesa, pur assurda che sia, è condivisa dalla maggioranza assoluta della popolazione. Ma i sondaggi, e quello che si sente dire in giro, lasciano molto poco a sperare su quanto pensa la maggioranza dei nostri connazionali e presumibilmente la maggioranza dell'umanità, compreso i cittadini dei non moltissimi paesi in cui l'assassinio legale non è previsto. Tutti sappiamo che la pena di morte ha scarsissimi effetti deterrenti, che gli argomenti in base a cui la si giustifica non sono come minimo barbarici e primitivi, nonché in contrasto con i codici morali che la nostra cultura esplicitamente accetta, ma ci restiamo attaccati con una tenacia straordinaria. E sfido, perché aderire a quel macabro rituale è uno dei modi possibili per manifestare, senza prenderci il disturbo di riconoscerla, la pulsione di morte che è solidamente inserita nella nostra natura, e di esprimere la sempiterna illusione per cui il diritto di largire la morte agli altri è una garanzia di una nostra personale immortalità. Se qualcuno vi racconta che lui è favorevole al patibolo in nome della giustizia o della vendetta, non credetegli. Il fatto è che a lui ammazzare anche per procura piace moltissimo. Di questo bisogna rendersi conto e di questo dobbiamo scandalizzarci tutti.